Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Io sono Maurizio Melis e stasera cercheremo di tracciare un rapido quadro dei programmi italiani di finanziamento a risparmio energetico, con particolare attenzione al finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, oltre che ai progetti di efficientamento delle imprese. I programmi sono numerosi, non mi resta perciò che dare il benvenuto al nostro ospite, Dario Di Santo, direttore di FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia, che è stato con noi settimana scorsa proprio per parlarci dei programmi europei, e stasera torna, per così dire, in versione nazionale. Buonasera Di Santo. Buonasera a tutti voi. Allora, diciamo subito una cosa che purtroppo è un po' più deprimente: a parlare dei programmi italiani, non perché non ci siano, ma perché? Perché purtroppo alcuni ci sono, ma poi non arrivano i soldi, altri i soldi spariscono ancora prima di partire, e altri ancora, diciamo, minano la credibilità dei progetti stessi, e che significa che le risorse sarebbero anche interessanti, ma poi non sempre si riesce ad ottenerle, specie a livello nazionale. Vabbè, ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli, però diciamoli lo stesso a questo punto. Quali sono intanto, ecco, i programmi nazionali? Perché poi ci sono anche di tipo regionale, forse più affidabili. Prego. Sì. Allora, beh, intanto ascoltatori, non perdete la speranza, del resto siamo in Italia, finché non miglioriamo il paese dobbiamo andare avanti e arrangiarci con quello che passa al convento. Allora, per il nazionale abbiamo programmi per la ricerca, tra cui dovrà uscire nel corso dell'anno, così sono le previsioni, un progetto sulla ricerca del sistema elettrico, quello che è finanziato da una parte degli oneri tariffari, sono 60 milioni di euro, che quest'anno dovrebbero privilegiare in particolare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle piccole, soprattutto se partecipano con università o enti di ricerca. E qui si tratta di incentivare tecnologie per la generazione distribuita, le reti intelligenti, la produzione di energia elettrica, i LED per l'illuminazione, il risparmio dell'energia e i materiali innovativi, sempre collegati al settore elettrico. Può anche essere che vengano fuori dei bandi simili a quelli che lo sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente avevano erogato lo scorso anno, 10 milioni di euro, che erano sempre per la ricerca, sempre finalizzati a incentivare enti di ricerca e università. L'altro grande programma nazionale è Industria 2015, in teoria il programma è stato chiuso per quanto riguarda i finanziamenti, però ci sono ancora una serie di soggetti vincitori del bando che stanno aspettando di essere finanziati. Con buona pace. Sono pochi. Con buona pace loro. Ora, soprattutto su un programma di ricerca e innovazione, l'avere i soldi magari dopo 2 o 3 anni della data prevista non è esattamente il massimo, perché uno rischia di innovare o ricercare un qualcosa che nel frattempo è già stato scoperto da qualcun altro. Questo problema ce l'abbiamo in generale, anche gli incentivi, quelli normali, diciamo, come il conto energia e quant'altro, spesso non riescono a tenere il passo dell'innovazione tecnologica, e questo è un problema, perché appunto la tempestività è fondamentale, perché se si incentiva presto una tecnologia si incentiva lo sviluppo tecnologico, quando la si incentiva tardi si può solo alimentare la domanda, in fondo. Chiaramente. Diciamo che le regole dovrebbero essere due: tempestività e certezza delle regole, e il mercato decolla, che è poi il vero obiettivo degli obiettivi. Ecco, tornando ai nostri programmi nazionali. Allora, poi abbiamo il Fondo Kyoto, che è un fondo di rotazione, 200 milioni di euro l'anno, per un totale di 600 milioni di euro. Qui i soldi sono di meno, perché essendo un fondo di rotazione in realtà si tratta di un incentivo in conto interessi, e quindi va a finanziare a tasso agevolato dello 0,5% fino al 75% dei costi ammissibili per interventi realizzati a privati, al 90% dalla pubblica amministrazione, con prestiti di scopo di durata dei 3 ai 6 anni a rate semestrali, quindi sarebbe un qualcosa di interessante per quegli interventi che sono ormai di dominio pubblico e riguardano dalla microcogenerazione alle fonti rinnovabili piccola taglia, dai motori elettrici agli usi finali e fino alla ricerca e alla gestione forestale. Però qui quello che manca è una circolare attuativa da parte del Ministero delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti, che manca ormai da qualche mese. Se si pensa che questo fondo in realtà era stato lanciato da una finanziaria 4 anni fa, cioè un po' in ritardo siamo anche su questo. Ecco, tra l'altro questo sarebbe un ingrediente molto importante, perché una delle principali difficoltà che ci sono oggi sul fronte dell'efficienza energetica per quanto riguarda soprattutto le imprese è proprio approvvigionarsi dei denari necessari a fare le operazioni. azioni di efficientamento energetico, perché spesso le banche fanno fatica, non avendo competenze adeguate all'interno, a capire il senso delle operazioni che vengono proposte, e quindi qui sarebbe veramente molto prezioso che questo fondo venisse attivato, perché vuol dire finalmente avere, come dire, una certa facilità probabilmente ad accedere a questi prestiti. Chiaro, non solo, ma poi insomma questi 200 milioni di euro si tradurrebbero in circa 2 miliardi di euro di investimenti, considerando finanza appunto il delta solo di tasso, la differenza, e non l'investimento. Certo, quindi insomma è veramente importante che su questa cosa ci sia un'accelerata. Ecco, invece a livello regionale le cose vanno un po' meglio. Beh, diciamo c'è qualche speranza in più, qui i fondi, li avevamo un po' citati l'altra volta, sono quelli legati ai fondi strutturali, quindi al FESR soprattutto, in parte al fondo sociale, e qui varie regioni, più che altro quelle del meridione perché hanno più fondi a disposizione, ma c'è qualcosa di disponibilità anche al nord, hanno lanciato una serie di bandi, fra questi è in partenza anche il POIN, che è un programma operativo interregionale. Ce n'è uno sul turismo, quello che ci interessa di più in questo caso è quello sull'energia, capofila della regione Puglia, cominciano a venire fuori le prime cose in questo momento, qui parliamo di 1,6 miliardi di euro distinti a metà prevalentemente fra produzione da fonti rinnovabili e risparmio energetico, con un 4% circa destinate all'assistenza tecnica. Ci sono bandi poi come quello della regione Lombardia attraverso il CEST, che da 145 milioni di euro dedicato all'acquisto di macchinari innovativi e per l'efficienza energetica. Anche qua insomma c'è qualche ritardo nell'assegnazione, ma si spera che le cose vadano a buon fine. Grazie Di Santo. Di niente, grazie a voi. Bene o male, ma insomma per oggi questo è tutto. Domani invece parliamo di biogas. Buona serata a tutti.